Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo anche di quello che sta capitando in borsa, per quanto, attenzione, che rispetto all'inizio della seduta tutto sta molto rientrando. Si temevano, c'erano anche cali molto forti su alcuni titoli bancari. Parleremo dell'inchiesta sulle 24 ore, la spiegheremo, che riguarda il Banco Popolare di Milano e la fusione con il Banco, la Banca Popolare di Milano e la fusione con il Banco Popolare. Ne parleremo perché noi abbiamo sempre, questo va detto, appoggiato le fusioni delle popolari. Lo dico in maniera molto tranquilla perché l'abbiamo detto in onda più volte, nell'idea che appunto le banche popolari più grandi dovessero trasformarsi in SPA, perché l'idea dello statuto delle popolari può andare bene per banche più piccole, veramente legate al territorio, con una presenza solo in quel territorio, non per banche che di fatto erano e sono delle vere SPA, ma mantenevano voto capitario, una testa, un voto e la quota massima di possesso azionario e quant'altro. Per cui sulla fusione, su qualunque fusione delle banche popolari che consolidi il settore, chi vi parla ha sempre avuto un'idea abbastanza chiara, cioè che devono andare avanti perché servono anche banche più solide al paese. Ancora vedo che qualcuno già mi scrive, ne parleremo fra poco. Sì, attenzione, perché ne parleremo anche con chi ha utilizzato e ha avuto modo di vedere questo materiale. Detto ciò, parleremo anche di una buona notizia, e qualcosa si muove nel mondo universitario anche sul fronte della formazione di quello che è l'approccio modello campus. Oggi verrà inaugurato alle 18 una nuova sede romana di Campus, che è il college per studenti universitari. Faccio notare, ma poi ne parleremo con chi ne fa l'amministratore delegato, che è un college in cui partecipano anche e soprattutto studenti che vincono borse di studio, e va a integrare una rete di 11 strutture distribuite fra Bologna, Catania, Milano, Palermo e Torino. Campus non vuol dire solo l'alloggio, ma vuol dire anche il tutor e chi ti segue. Nella formazione universitaria diciamo sempre che c'è la fuga dei cervelli, ripeto, a mio avviso c'è un po' di stereotipo anche sulla fuga dei cervelli, però ci dimentichiamo che qualcosa si sta muovendo in Italia, e poi che la fuga avviene sia per la qualità dell'insegnamento che per tutto quello che è la struttura universitaria. Dicevo, al di là di questi temi, il Monte dei Paschi, quindi torniamo a palla sulla cronaca, sarà oggetto di approfondimento, come avevo promesso ieri, perché domani mattina alle 9:30 ci sarà l'assemblea degli azionisti. Il quorum è stato raggiunto con il 20% per costituire validamente l'assemblea. Oggi consiglio di amministrazione, insomma, alla vigilia dell'assemblea è ovvio che Monte dei Paschi faccia notizia. A questo proposito però va detto che la borsa, come già anticipavo, non ha delle reazioni particolarmente significative. L'indice è invariato. Milano, Parigi perde lo 0,20, Francoforte lo 0,40, Londra più 0,1, Dow Jones più 0,1, euro su dollaro 1,05, quindi continua a mantenersi l'indebolimento dell'euro nei confronti del dollaro. E tra i titoli segnalo che va molto bene Case New Holland, CNH Industrial più 5,44%, Tenaris più 2 come Exor, la controllante del gruppo Fiat, Leonardo Finmeccanica più 1,90, Italgas più 1,70, Saipem più 1,5 come Recordati e Fiat Chrysler, Luxottica più 1,40, A2A più 1,30 come Telecom Italia. Il fronte opposto vede invece calare Generali, meno 2,75%, ne parleremo, Unipol, anche perché vi sono state parecchie dichiarazioni su Generali, presentazione, ne abbiamo parlato anche ieri, del piano industriale, e tra l'altro ha confermato Generali come obiettivo al 2018, oggi presentando il piano industriale a Londra, oltre 5 miliardi di dividendi al 2018. Vede più o meno un risparmio di 1 miliardo in contanti, l'uscita dai mercati non attrattivi, e poi stima anche una riduzione dei costi per 200 milioni nei mercati Maturi, non ci saranno esuberi, questo lo ha dichiarato lo stesso numero uno Philippe Donnet in merito alla riduzione dei costi per 200 milioni di euro. Telecom, mi chiedete, Telecom c'è un acquisto, Vivendi ha riacquistato azioni di Telecom, il titolo se ne avvantaggia. E poi su Case New Holland, ma ne parleremo, c'è il concorrente principale statunitense che ha pubblicato una trimestrale superiore all'attese, quindi per parallelismo si va a comprare anche il titolo Case New Holland. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Mi chiede un ascoltatore: voi date i prezzi degli indici o dei futures? No, diamo la variazione degli indici da questo punto di vista, per cui ma come sempre, insomma, quello usiamo il sistema Radio Core, il sole 24 ore, e diamo la variazione degli indici. Allora, andiamo alle notizie in breve. Per quello che riguarda il petrolio, allora, la cosa interessante è notare che mentre il petrolio continua a rafforzarsi, c'è un'attesa di un aumento dei tassi di interesse ormai data quasi per certa a dicembre negli Stati Uniti, non a caso l'oro è sceso a nuovi minimi da febbraio, è arrivato alla soglia dei 1200 dollari l'oncia, e tra l'altro i futures, in questo caso parlo di futures sul metallo prezioso, hanno registrato un calo dell'1,4% a 1194 dollari l'oncia. Da quando è stato eletto Trump, e quindi si ritiene che la politica più espansiva, di maggiore spesa di Trump, porterà non solo a un ulteriore aumento del deficit, ma a una maggiore spesa, maggiori consumi e un po' più di inflazione, e quindi giustificherà ancora di più un aumento dei tassi di interesse, dicevo, da quando è stato eletto Trump l'oro ha perso circa il 6% del suo valore. Ancora per quello che riguarda il petrolio, dicevo, siamo a 48,3 dollari al barile. Restiamo sull'economia internazionale. Oggi Angela Merkel, visto che faremo una puntata che ho promesso su, al di là delle valutazioni di ognuno, su quanto il libero scambio, il libero commercio arricchisca o impoverisca i paesi a livello storico, perché non è che scopriamo adesso il libero commercio. Oggi è interessante la dichiarazione della cancelliera tedesca Angela Merkel, che è intervenuta al Parlamento di Berlino, ha detto: io ve lo dico sinceramente, non sono contenta che l'accordo transpacifico, il TTIP, probabilmente non verrà realizzato, non so chi se ne approfitterà, so solo una cosa, vi saranno altri accordi commerciali che non avranno gli standard che questo accordo avrebbe avuto, perché il problema è che poi, in assenza di un accordo di nuovi standard, io lo dico, so che molti sono contrari al TTIP, non so, altri, pochi l'hanno letto, anche perché molti di questi documenti, purtroppo questo è stato un errore, non sono pubblici. Però attenzione, che non è che se tu non fai l'accordo Europa-Stati Uniti smetti di avere commercio di beni e servizi, ma di beni in questo caso di qua e di là dall'Atlantico, avrai altri standard, cioè non riuscirai a imporre, se riuscivi, alcuni dei tuoi standard, e avrai comunque altri standard. Gli americani continueranno a fare accordi da altre parti, poi vedremo. Mi sembra che Trump sia il primo a questo punto a non volere una maggiore liberalizzazione del commercio, per cui e infatti Angela Merkel dice: ci saranno altri accordi commerciali, ma nessuno avrà gli standard del TTIP, avranno standard inferiori. Ora, con buona pace di chi ritiene che i britannici abbiano fatto molto bene a votarsi la Brexit, ognuno può pensare come vuole, però faccio notare che anche oggi è arrivata un'ulteriore preoccupazione, non è la nostra, in questo caso è il governo britannico, Theresa May dovrebbe essere, diciamo, è assolutamente a favore della Brexit, eppure stima un rallentamento della crescita all'1,4% nel 2017 come effetto delle conseguenze della Brexit, e rinuncia al governo britannico ai piani di avanzo di bilancio fissati per il 2018, ossia cosa fa? Non va a mettere soldi in cascina, se li tiene pronti per essere utilizzati proprio, e lo spiega, per far fronte alle nuove sfide con flessibilità, quindi non vuole iniziare a dire avremo questo avanzo di bilancio nel 2018 perché teme che questi soldi serviranno per far fronte a nuove sfide, tra cui ci sono anche dei costi, per esempio in agevolazioni fiscali che il governo britannico pensa o sta valutando di dare alle imprese straniere che sono presenti nella City, pur di convincerle a restare nella City. E su questo, sulla Brexit, si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il percorso che porterà la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea è ancora indefinito, sia nei tempi sia nei modi. Fin dal referendum del giugno scorso è stato un susseguirsi di studi, di ricerche, di previsioni sugli effetti che Brexit avrebbe avuto sull'economia britannica. Ora a fare i conti è proprio il governo di Londra, che oggi ha presentato la sua manovra finanziaria d'autunno. Che cosa emerge? Beh, Londra conferma che la crescita del 2016 sarà del 2,1%, un po' più consistente di quanto era stato previsto prima del referendum. Tuttavia, negli anni successivi la Brexit si farà sentire con una lunga serie di previsioni al ribasso. Nel 2017, per esempio, il PIL si fermerà all'1,4%, 0,8 punti in meno del previsto, e le cose proseguiranno in questo modo almeno fino al 2020, quando la crescita ritroverà il ritmo immaginato prima di Brexit. Peraltro verrà meno un vecchio adagio conservatore, perché la Gran Bretagna rinuncerà fino al 2020 al pareggio di bilancio. Londra lascerà correre il deficit e l'indebitamento aumenterà di 120 miliardi di sterline in 5 anni. L'addio a Bruxelles comincia dunque a prendere corpo, anche se effettivamente ancora nessuno sa quali saranno le reali conseguenze. Intanto una cosa è certa: Londra farà il più volte annunciato taglio delle tasse sulle imprese, ma anche in questo caso con cautela. Entro il 2020 l'aliquota scenderà al 17% e non al 15%, come qualcuno aveva ipotizzato. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ancora per quello che riguarda invece, veniamo all'Italia, lo spread tra BTP e Bund è salito a 186 punti, il massimo dall'ottobre 2014, di nuovo tensioni sui rendimenti dei titoli di Stato italiani. Standard & Poor's, l'agenzia di rating, interviene anche sul referendum, in caso di vittoria del no referendum. Quello che preoccupa i mercati sono le banche e la situazione dei non performing loans, cioè delle sofferenze, in quanto probabilmente ritarderebbe la soluzione di questi problemi, perché le attenzioni sarebbero più concentrate su questioni politiche che finanziarie. Vero, faccio notare che però allora l'errore è stato legare gli aumenti di capitale Monte dei Paschi e Unicredit al dopo referendum, perché aumenta le aspettative, le tensioni, la speculazione dei mercati. Comunque Standard & Poor's aggiunge anche: ci sarà un po', se dovesse vincere no, ci sarà un po' di turbolenze sui mercati. Questo obiettivamente ce lo aspettiamo tutti, ma c'è lo scudo della Banca Centrale Europea. Ripeto, giusto per evitare, adesso devo rispondere ai messaggi, la posizione del sottoscritto è molto chiara: non bisogna caricare il referendum di valutazioni e aspettative che non ha, è un referendum costituzionale, l'andamento dell'economia non c'entra nulla. Gli aumenti di capitale si sono voluti legare per motivi di situazione politica al dopo referendum. A mio avviso questo ha alimentato ulteriormente le praterie della speculazione sul referendum stesso, al di là di come uno la pensi, che voti sì o che voti no, che gli piaccia l'attuale Costituzione oppure che voglia eliminare il Senato e ridurre il potere delle regioni o il CNEL. Al di là di questo è un errore dare troppa importanza, può essere anche un boomerang. Allora, non sul referendum ma sul tema dell'economia, oggi è intervenuto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi alla cerimonia di inaugurazione dell'anno di studio della Guardia di Finanza. Il paese torna a crescere, i numeri vedono il paese tornare a crescere, il PIL fra il febbraio 2014 e l'ottobre 2016 a un più 1,6%, l'occupazione vede il segno in più di 656.000 unità. Allora, devo chiarire questa cosa del PIL per come la capisco, cioè Renzi prende l'andamento tra febbraio 2014 e ottobre 2016 e cumula due anni di crescita, perché sappiamo che quest'anno il PIL, se va bene, farà 0,9, molto probabilmente farà 0,8%. La pressione fiscale è insostenibile, la riduzione della pressione fiscale è il fulcro è il caposaldo dell'azione di governo. La riduzione della pressione fiscale è il caposaldo dell'azione di questo governo. E non lo è in ragione di un fumo ideologico, perché presumibilmente in altri paesi, se fossimo cittadini di altri paesi, per storia politica, tanto il ministro quanto il sottoscritto, non saremmo degli arditi sostenitori della necessità della riduzione delle tasse. Il punto vero, il punto drammatico, il punto chiave di questa discussione è che l'Italia ha una pressione fiscale che è semplicemente insostenibile. Allora, su questo è intervenuto sempre la cerimonia della Guardia di Finanza anche il Ministro dell'Economia Padoan, il quale ha detto meno tasse per 23 miliardi e mezzo nel 2017 nel complesso su famiglie e imprese. Il taglio di spese inefficienti ha consentito di abbassare gradualmente le imposte mediante la riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi a partire dal 14, l'eliminazione della componente dell'IRAP calcolata sul costo del lavoro nel 15, la cancellazione della TASI sull'abitazione nel 2016 e ancora la riduzione dell'IRES nel 17. Nel complesso, i principali interventi di riduzione delle imposte comportano che su famiglie e imprese graveranno nel 2017 meno tasse per 23 miliardi di euro, 5. Allora, guardate che io non ho mai detto che siano stati quelli che vogliono votare no a caricare di significato economico impropriamente il referendum. Anzi, diciamo, la variabile politica per prima l'ha introdotta il Presidente del Consiglio, poi ha fatto marcia indietro dicendo me ne vado, per cui, ma che ci sia a questo punto un'attenzione fortissima in tutti i mercati alla variabile politica, cioè vincono e no, cosa succede al governo italiano? Tutto viene rimandato, per cui vado a vendere Italia oppure compro Italia, questo è chiaro, lo capiscono anche i bambini. E ripeto, è stato sbagliato legare il futuro a breve, quantomeno quello a breve, della nostra economia a un voto su un referendum che si occupa di Costituzione. I referendum li abbiamo sempre fatti in sto paese. E ripeto, la responsabilità di questo non ho mai detto che sia del no, è anche dei fautori del sì. Andiamo avanti, una brutta notizia per il mondo a cui apparteniamo, l'editoria, parliamo dell'editoria in primo luogo cartacea. In 5 anni, dal 2011 al 2015, i principali 9 gruppi editoriali italiani hanno perso il 32% del fatturato, 1 miliardo 800 milioni in meno, che è il cumulato di perdite nette per 2 miliardi e ridotto la forza lavoro di oltre 4.500 unità. In totale sono scesi a 300.000 i dipendenti totali del mondo dell'editoria, lo afferma la ricerca dell'ufficio studi Mediobanca sul settore, e il trend nel taglio dei dipendenti starebbe proseguendo anche quest'anno. In 5 anni le vendite dei quotidiani sono scese di 1 milione di copie, da 2,8 milioni a 1.800.000 totali. Allora, andiamo al primo tema, che non riguarda le banche, la borsa, così, ma riguarda il fatto che domani noi spesso chiediamo di non occuparci solo del referendum, ma della legge Madia e di altre riforme, della spending review, perché sennò il paese si blocca. Allora, domani arriva in preconsiglio dei ministri la legge Madia sulla riforma della pubblica amministrazione, ce ne occuperemo, vedremo anche la parte dei decreti attuativi. È chiaro che la cosa che più ha fatto discutere ha a che fare con il ruolo dei dirigenti, la possibilità che uno sia dirigente solo se ha qualcosa da dirigere, non come incarico formale, la possibilità che vengano anche licenziati dirigenti, vuol dire anche i capi di gabinetto, insomma tutta la parte della PA che sta riforma non la vuole digerire. Allora, tra gli articoli del testo però Ce n'è anche uno dedicato alla regolamentazione dei comuni, da parte dei comuni, della tipologia dei negozi che possono essere presenti nei centri storici e più in generale, diciamo, vicino ai luoghi considerati patrimonio culturale. Il caso più noto è quello di McDonald's a Firenze, per capirci, no? Ora, su questo noi abbiamo sempre detto che le liberalizzazioni, e lo ribadisco, fanno bene, la concorrenza fa bene. Farò però l'avvocato del diavolo, perché vorrei capire le preoccupazioni di chi rappresenta gli esercizi commerciali. Quindi ringrazio per averci raggiunto in collegamento Giovanni Cobolligilli, presidente di Feda Distribuzione. Sono 15.000 esercizi commerciali rappresentati. Buonasera. Buonasera, buonasera direttore. Allora, le dico, giusto per memoria storica, che già dalle prime lenzuolate di Bersani, poi il secondo Bersani, noi ci siamo sempre schierati con le riduzioni dei vincoli anche della distanza minima tra esercizi commerciali, cioè la concorrenza offre un servizio e vediamo chi lo offre meglio, perché altrimenti si chiamano rendite di posizione, non si chiamano più servizi, cioè non hai concorrenti, mantieni il tuo status quo, non innovi, e sul mondo del il mondo del commercio, a mio avviso, ha molte colpe, lo dico in maniera molto chiara su questo, anche nell'aver fatto delle volte battaglie di retroguardia, no alle ZTL, no alle aree pedonali, no, cioè mantenendo le posizioni quando il mondo fuori cambiava. Dopo il meteo però vorrei capire che cosa vi preoccupa di questa norma nella riforma della pubblica amministrazione, cioè che darebbe, se ho ben capito, il potere quasi totale ai comuni di decidere chi può aprire o no nei centri storici patrimonio culturale. Firenze per esempio ha deciso che il 70% dei negozi deve vendere prodotti locali, e appunto ha respinto la richiesta di apertura di un McDonald's. Vista così, io direi vabbè, ma facciamoci del bene, promuoviamo le nostre attività. Vorrei capire qual è il vostro timore a partire da quello di un dirigismo eccessivo. Dopo il meteo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Allora, presidente di Federdistribuzione Giovanni Cobolligilli, cosa c'è di male in questa norma del testo di riforma della pubblica amministrazione che dà ai comuni la possibilità di decidere la tipologia di negozi che può essere presente nei centri storici e anche vicino ai luoghi considerati patrimonio culturale? C'è di male che ci sono delle regole, regole fatte dalla Corte Costituzionale e della Costituzione, e finché ci sono queste regole vanno seguite. Dal 2012 ad oggi, quando è entrato il concetto di liberalizzazione portato avanti da Monti, ci sono state 14 sentenze della Corte Costituzionale, 11 sentenze del TAR, 13 pareri dell'antitrust, che è l'autorità che disciplina la concorrenza. Allora, tutte queste regole dicono che il potere della concorrenza è un potere statale e non è un potere comunale. Lei immagini se tutti gli 8.000 comuni facessero quello che sta pensando di fare Firenze, cioè il 70% dei prodotti alimentari venduti nelle zone arcologiche, paesaggistiche, di centro storico, eccetera, eccetera, devono essere di provenienza della regione. Se ognuno degli 8.000 comuni facesse una cosa del genere, verrebbe fuori un caos infinito. E sarebbe anche una cosa non possibile, perché a Firenze i consumatori, dobbiamo pensare anche ai consumatori, avranno diritto di mangiare le banane, di mangiare le arance, di mangiare tutti i prodotti che non esistono. Mi scusi, ma questo per farci capire, ma varrebbe anche per un ortofrutta, nel senso dovrebbe avere tutti i prodotti toscani? Il regolamento della regione di Firenze è un regolamento che ha qualche cosa addirittura di assurdo. Varrebbe per i prodotti dell'ortofrutta, dove vengono stabilite certi tipi di tipologie merceologiche, cioè certe merci che devono essere vendute ed altre che non devono essere vendute. Se mi perdete di uscire un attimo, ma per darle un paradosso, i negozi che vendono pizza nel centro di Firenze potranno continuare a venderla se il prodotto non viene pubblicizzato in maniera percepibile all'esterno del locale. Allora, voglio dire... Lo vende sotto banco? Come un push? Non lo so, lo deve... No, però io vorrei capire una cosa, però. Allora, se io prendo la norma a livello astratto... o teorico, a parte che le liberalizzazioni, io continuo a difendere, secondo uno studio del Ministero dello Sviluppo Economico, le liberalizzazioni del mercato dei servizi porterebbero una crescita del PIL del 3,3%. Sì, faccio, signora, notare, certamente. Faccio notare che la liberalizzazione dell'aspirina, che nulla c'entra con quello di cui stiamo parlando, da quando è stata liberalizzata il prezzo è sceso del 20%. L'abolizione della firma notarile per il passaggio alla proprietà delle auto ha prodotto un risparmio di 40 euro per atto. L'eliminazione della penale per l'estinzione di mutua anticipata ha portato a un risparmio medio di 500 euro. Per fare tre esempi che nulla volutamente c'entrino con il vostro. Però, veniamo alla norma. Da un punto di vista teorico, il dire, beh, il comune ha anche il diritto di dire, ma io non voglio che tu mi apra col massimo rispetto per tutti gli esercizi commerciali, ma magari un McDonald's davanti al Duomo, io non ce l'ho con McDonald's, oppure... Un sex shop davanti al Duomo, forse a qualcun altro potrà interessare, ma obiettivamente, se no il comune non riesce più a gestire anche, non dico il decoro, ma la parte che riguarda l'offerta che si dà, allora non si capisce perché dobbiamo avere tantissimi altri vincoli sulle insegne, su tipologie di insegne, cioè rientra in una possibilità che tu non possa trasformare in un Disneyland, in una Disneyland qualunque, un centro storico da un valore, di valore architettonico. Che cos'è che ritenete a questo punto che non solo non sia una liberalizzazione ma sia troppo dirigistica come norma? Dirigistica, e si danno poteri illimitati ai comuni, i quali hanno già tutta una serie di poteri che noi riteniamo assolutamente corretti in termini di autorizzazioni urbanistiche, edilizie, sanitarie. Hanno la polizia che va a controllare, che dovrebbe andare a controllare quello che fanno i negozi e quindi vedere se i negozi fanno in maniera corretta il loro mestiere oppure non lo fanno in maniera corretta. Ma arrivare a dare un potere a 8.000 comuni di muoversi in maniera di autocratica, sostanzialmente riportiamo l'Italia a una situazione di autocrazia, cioè una situazione in cui ognuno decide quello che vuole. Dal punto di vista commerciale sarebbe impossibile fornire i nostri negozi di tipologie di questo tipo, anche se naturalmente noi teniamo molto in evidenza quelle che sono... No, perché molti ascoltatori mi fanno notare che magari ne avrebbero un vantaggio i prodotti italiani del territorio, anche per la promozione. Ma ce l'hanno i prodotti italiani. Noi, cioè, io perché adesso tutti... non ho niente contro, ma ci mancherebbe. Però, voglio dire, è ovvio, lasciamo stare per un momento McDonald's, ma è ovvio che tra un Irish pub e una fiaschetteria, posso dirla così, se mi chiedono opinione personale, preferisco che vi sia una fiaschetteria che promuove i vini toscani, i vini anche in questo caso toscani. Cioè, uno potrebbe anche... Esiste un regolamento sulle insegne con Bolli Gilli? Certo che per cui non è che uno può mettere un neon arcobaleno di fronte a un monumento in Italia, per fortuna, aggiungo io. È proprio perché esistono dei regolamenti che noi diciamo applichiamo questi regolamenti e non mettiamoli degli altri. L'altra cosa che dico, la grande distribuzione, ma anche il dettaglio, privilegiano i prodotti italiani, però c'è un momento in cui i prodotti italiani non sono sufficienti neanche, quindi noi è chiaro che vendiamo prodotti italiani e vendiamo prodotti locali in ogni regione, perché il nostro interesse è sostanzialmente favorire il localismo. Quindi cancelliamo dall'idea che noi vogliamo vendere prodotti non italiani. Noi però vogliamo avere il rispetto di quella che è la libertà che è data dalla Corte Costituzionale. C'è stata una sentenza anche due settimane fa che dice che sostanzialmente è lo Stato che deve decidere una serie di cose. Vogliamo cambiare? Cambiamo. Beh, lo Stato però, Coboli, io trovo che sia sempre un po' limitativo rivolgersi alla Corte Costituzionale, nel senso che come ultima spiaggia, perché lo Stato potrebbe anche dire, va bene, io decido di delegare il potere ai comuni di gestire al meglio quella che è l'offerta commerciale in aree considerate di patrimonio culturale. Non lo può fare in questo momento. Lo Stato può sostanzialmente dire certe cose che tutti i comuni devono rispettare, cioè stabilire nell'Italia delle 20 regioni, degli 8.000 comuni, in cui ogni regione fa quello che vuole, ogni comune potrebbe fare quello che vuole, bisogna ritornare ad accentrare certi poteri, perché sennò corriamo il rischio di basarci su un modello di capitalismo fondato su relazioni tra grandi poteri economici, sto leggendo, sul rapporto privilegiato tra apparati pubblici, sulla protezione nei confronti dei concorrenti, mentre noi vogliamo un modello ispirato a una concezione aperta dell'economia e della società dove è centrale una competizione basata sui Cobolli, meriti. Gilli, è vero, però attenzione perché io le potrei anche rispondere, però tra una catena internazionale che nessuno dice che non ci debba essere, punto S, debba essere di fronte al Duomo oppure no, usiamo Starbucks così non parliamo sempre di McDonald's, va bene. E il piccolo esercizio o il piccolo imprenditore che vuole promuovere prodotti locali, è chiaro che il vantaggio come pressione, come capacità di persuasione è più grande nella grande catena internazionale. Per cui da questo punto di vista bisogna anche stare attenti a non avvantaggiare solo le grandi catene in questo caso, no? Lei sa, direttore, comunque che le catene internazionali nell'alimentare in Italia rappresentano il 20% e che l'80% sono ancora catene nazionali. Quindi non c'è questo pericolo di invasione di catene internazionali. E in secondo luogo invito ad andare nei negozi anche delle catene internazionali, non faccio nomi, e vedrete che l'offerta è altamente, prevalentemente un'offerta italiana. Dopodiché forse non riesco a spiegare bene. No, ho capito il punto. Dico solo che a mio avviso bisognerebbe trovare anche una via di mezzo. Alcuni mi scrivono: ma guarda, che poi anche il ristorante toscano può essere pieno di prodotti surgelati che di Toscana non hanno niente. Ho capito, questo è un altro rischio. Però adesso non è che possiamo spaccare il capello in mille parti. Io ritengo due cose. La prima è una correzione internos, io faccio il vice direttore, non il direttore. Ma la seconda invece, non c'è problema. Si chiama ministro. Vabbè, ecco, non facciamo paralleli propri. Però al di là di questo, che non frega nessuno, no? Io penso che da un lato ci sia bisogno. Guardi che in altri paesi, non so, in Francia questo tema è discusso da anni, cioè il fatto di non piazzare la grande catena americana, australiana, quello che volete, davanti. Io non sto parlando di questo però, vice direttore, non sto parlando di questo, io sto parlando del fatto che negozi piccoli o grandi che siano, e particolarmente nei centri città, sono tutti negozi di piccole dimensioni e nel caso nostro sono dei franchising, cioè sono degli operatori che utilizzano i marchi delle nostre aziende, ma che fanno sostanzialmente attività ancora artigianale, imprenditoriale diretta. No, ma a me interessava. Mi dica solo una cosa prima di concludere, Cobolli Gigli, ma voi farete ricorso, se passasse la norma, farete ricorso di incostituzionalità? Ampiamente anticostituzionale. Quindi farete ricorso alla Corte Costituzionale? Certo, ma le spiego brevemente. Una legge delega funziona su quelle che sono state le deleghe che il Parlamento ha dato al Governo. In questo caso il Governo sta scrivendo delle cose che non rientrano nelle deleghe che gli sono state date. Non perché capito. Le deleghe erano state date per favorire l'apertura, non per vietare delle cose. E si dà il potere ai comuni di vietare delle cose che non è corretto. Quindi noi andremo di nuovo in Corte Costituzionale, perderemo del tempo, lo perderanno tutti, ma il problema, vogliamo cambiare l'Italia o vogliamo mantenerla ancorata ad alcune cose che io rispetto moltissimo ma che sono sorpassate? Vice direttore, dobbiamo guardare in avanti. Adesso io vedo, spero che si sia capito come la penso io, non sono esattamente d'accordo con lei, anzi per alcune cose no, però faccio notare che avere uno scontro costituzionale non serve a nessuno, ma soprattutto alcuni le danno ragione, altri le danno assolutamente torto, ma alcuni le danno ragione dicendo che attenzione, se però non cambiano gli affitti in quei centri storici, poi l'alternativa è la chiusura della, cioè o tu hai i soldi da pagare per pagare quell'affitto o se no rischi che non venga perché gli viene proibito il grande gruppo e non venga neanche il piccolo perché non hai i soldi, preferisci aprire altrove e il centro storico vive di serrande abbassate. Questa è un'altra obiezione che arriva, per cui le sto leggendo tutte come vedete. Vedremo, ho già capito la vostra posizione, quando dovreste fare, ammesso che passi, dovreste fare ricorso, prenderemo atto anche del vostro ricorso. Grazie al presidente di Federdistribuzione Giovanni Cobolli Gigli. Traffico. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Focus Economia. Allora andiamo sulla borsa, innanzitutto dicevo seduta tranquilla oggi a Piazza Affari, invariato l'indice, meno 0,40 invece Parigi, meno 0,40 Francoforte, invariata Londra, più 0,13 il Dow Jones. Generali meno 3%, però si era già mossa molto in attesa del piano industriale che poi oggi è arrivato, presentato a Londra, l'abbiamo già raccontato, nessun esubero tra le riduzioni di costo a 200 milioni, 1 miliardo di risparmi delle uscite dai mercati non attrattivi e oltre 5 miliardi di dividendi al 2018. Unipol più 2,60, Jux più 1,5 come Snam, Salvatore Ferragamo e Mediobanca. Fronte opposto CNH Industrial più 6, Exor più 2,2, Tenaris pure, A2A più 1,80, Luxottica più 1,70, Leonardo Finmeccanica più 1,50 come Monte dei Paschi di Siena, e Fiat Chrysler più 1,5 come Recordati e la Pop di Milano. Una nota ancora su da questo punto di vista sulla su CNH Case New Holland Industrial. Qui c'è il bilancio molto buono della Deere, l'americana Deere, la concorrente, trimestrale molto buona, e si va a comprare il titolo. Vorrei però concentrarmi un secondo su Monte dei Paschi di Siena, non perché il titolo oggi, a differenza di me di altre sedute, abbia fatto notizia, ma perché CDA oggi e soprattutto assemblea degli azionisti domani. Marco Ferrando si sta dirigendo a Siena. Buonasera Marco. Sì, buonasera a voi. Allora, il tema, mi sembra, se riusciamo a spiegarlo a tutti, perché è un tema un po' complicato, mi sembra il tema del... Allora, hanno raggiunto il quorum, e questo l'abbiamo detto ampiamente anche ieri, per cui il 20% c'è e ci sarà da domani dalle 9:30 in poi l'assemblea degli azionisti, deve dare via libera al piano di ricapitalizzazione della banca da 5 miliardi e le modalità di conversione delle obbligazioni subordinate. Che cosa è successo in questi giorni sulle obbligazioni subordinate? Dunque, le obbligazioni subordinate ufficialmente da 10 giorni, come dicevi, fanno parte dell'aumento, nel senso che la banca ha spiegato le modalità, esattamente il prezzo a cui le ricomprerà affinché chi le detiene possa spendere quei soldi per l'aumento. Essenzialmente è capitato che state vendute, in particolare sembra dal pubblico retail, mentre ci sarebbe una quota abbastanza significativa di investitori istituzionali che li avrebbe tenuti proprio in vista della conversione, a partire peraltro da Generali. Allora, aspetta che devo chiarire ad alcuni ascoltatori, è seduta tranquilla nel finale, è successo di tutto, vi siete persi la prima parte del programma, oggi sui titoli di alcune popolari, ne parleremo fra un attimo, ho detto che la chiusura è tranquilla, i peggiori non li ho dati, Generali l'ho data e Unipol anche. Marco, resta con noi perché vorrei capire esattamente perché si sono mosse in questo modo le obbligazioni subordinate. Dopo il GR24 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi parleremo anche di Banco Popolare Popolare di Milano e di una buona notizia che riguarda l'accoglienza universitaria. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'approfondimento con, che in realtà è un'anticipazione, con Marco Ferrando, visto che domani c'è l'assemblea degli azionisti del Monte dei Paschi che deve votare l'aumento di capitale da 5 miliardi e le modalità di conversione delle obbligazioni subordinati. Dicevi Marco, i bond people, cioè i detentori di obbligazioni, la clientela, i piccoli risparmiatori, continuano a vendere il titolo però. Perché oggi il prezzo ha segnato un nuovo minimo a 58,5 euro e il rendimento lordo da scadenza supera il 40%. Con volumi abbastanza sostenuti pari a 1.300.000, cioè 700.000 euro. Prego. Sì, esatto. Come abbiamo già avuto modo di ragionare nei giorni scorsi, soprattutto agli occhi e agli orecchi dei bond people, pare chiaro che il rischio concreto è che la banca possa andare verso una risoluzione. E quindi, agli occhi del risparmiatore, meglio vendere prima che trovarsi in situazioni spiacevoli dopo. Come dicevamo prima, però, l'atteggiamento sembra essere diverso da parte degli istituzionali, che invece sembrerebbero essersi posizionati. Non dimentichiamo che proprio stamattina la banca ha pubblicato alcuni documenti su richiesta COSOB, da cui emerge che si aspetta un riscontro, cioè una conversione di almeno 1 miliardo da parte dei detentori di bond, il che vorrebbe dire un 20% dei 5 miliardi che servono. Quindi sicuramente comunque è una fetta importante dell'aumento di cui si parla domani. Allora, chiarisco, nel ringraziare Marco Ferrando, che domani riavremo ospite perché appunto c'è l'assemblea degli azionisti, chiarisco per la terza volta il commento di Borsa. Abbiamo detto in apertura del programma che oggi è successo di tutto sui titoli, soprattutto legati al mondo bancario e popolari, due dei quali parleremo tra un attimo. Ho detto in chiusura di Borsa, Borsa poco mossa, e lo confermo, alla fine l'indice è invariato, e anche i titoli, segnalo appunto che c'erano cali pesanti su Banca Popolare di Milano e Banca Popolare di Milano e Banca Popolare, addirittura con sospensioni, sono tutti, diciamo, da questo punto di vista rientrati quanto andamento. Il Banco Popolare ha fatto più 1,12%, la Popolare di Milano ha segnato un rialzo dell'1,42%. Di Case New Holland abbiamo detto, di Exor pure, nei negativi abbiamo detto Generali meno 3%, Unipol meno 2,60%, Iux Senta Porte meno 1,5% come Snam e Ferragamo e Mediobanca. Visto che ci sono, dico anche i migliori e i peggiori: Panaria Group più 6%, Neurosoft più 6% come CNH Industrial appunto, e Tecnogym più 4,60% come Lucisano Media Group. Fronte opposto: Acotel meno 8%, Net Insurance meno 7%, Gruppo Waste Italia meno 6,70%, PRL meno 6,5%, Elica meno 6%. Restiamo in tema non tanto di Borsa per le reazioni che ha avuto, ma per quello che è successo oggi, e parliamo appunto dell'articolo del Sole 24 Ore che chiamava in causa in maniera diretta Popolare di Milano e Banco Popolare. Quando è che arriva a 4? Perché è una fatica in questi giorni fare il programma, qualunque cosa. Va bene, andiamo avanti. Allora, BPM e le incognite sulla fusione con il banco. Rifaccio la premessa che ho fatto alle 17. Chi vi parla e questo programma è sempre stato d'accordo, l'ho detto in tutti i modi possibili, con il governo in questo caso, e la legge che ha obbligato le banche popolari più grandi, quelle con almeno 10 miliardi di asset, a trasformarsi in SPA, perché da questo punto di vista il regolamento delle banche popolari, il voto capitario, un voto a testa, la limitazione, ogni testa un voto, la limitazione della quota posseduta, può essere giustificato su banche realmente legate a un territorio circoscritto, ma quando le banche hanno tutte le caratteristiche delle altre SPA non aveva senso mantenere queste clausole, diciamo, che di fatto poi rendevano la governance un pochino strana. E poi si è visto con i casi di questi due anni che la teoria per cui le banche popolari dovessero mantenere questo statuto diverso dalle altre SPA perché erano legate al territorio e penetravano il territorio era una balla, nel senso che gli scandali li abbiamo avuti su banche SPA, ma li abbiamo avuti anche, oserei dire, in qualche modo soprattutto su banche popolari. E non devo andare a Etruria e Lazio, a Cari Ferrara, a Chieti, ma soprattutto non devo andare anche alla Popolare di Vicenza e a Veneto Banca. Per cui da sempre siamo d'accordo e lo dico agli ascoltatori, abbiamo detto più volte che l'operazione BPM e Banco Popolare andava nella direzione giusta, perché va a rafforzare le dimensioni dell'istituto e crea un soggetto più corposo. Il problema è vedere quali altre si sposeranno. Lo dico come premessa, perché poi oggi su Sole 24 Ore Claudio Gatti invece avanza, alla luce dei documenti che ha avuto modo di visionare, non una obiezione nostra sulla fusione, ma il rischio che la Banca Centrale Europea rilevi problemi di sottocopertura sui crediti deteriorati. Allora, vi dico che è arrivata anche una nota del Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano, che dice l'ipotesi che dalla BCE possa arrivare una capital decision, ossia un innalzamento dei minimi di capitale richieste a fronte dei rischi, va nel solco e conferma le preoccupazioni e le ripetute dichiarazioni dell'associazione per BPM sulla pessima scelta effettuata. Questo a critiche. Invece, da questo punto di vista, ci sono forzature. Per altri analisti dicono no, guardate che tutto è previsto, altri dicono no, in realtà è un elemento nuovo. Claudio Gatti, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Allora, con tutte le premesse del caso, perché ripeto, l'operazione a me sembra un'operazione che va nella giusta direzione, l'obiezione che potrebbe muovere la Banca Centrale Europea qual è? La Banca Centrale Europea ha dimostrato sin dall'inizio freddezza per l'operazione perché sembra essere un'ennesima operazione difensiva, nel senso il sistema bancario italiano ha bisogno di più eccellenze, ne ha ben poche, e la Banca Popolare di Milano è una piccola eccellenza, anche perché dopo il periodo di Ponzellini, insomma, è riuscito a risanare i propri conti anche su spinta della vigilanza. Il problema è che con la riforma Renzi, che anch'io assolutamente condivido, perché le popolari, le vicende Vicenza eccetera eccetera dimostrano che erano gestite praticamente... No, dimostrano, scusami, che una grande banca popolare in tutto e per tutto è uguale a una SPA, per cui nel bene o anche nel male, ma non c'è questa diversità antropologica che sostenevano i teorici dello statuto dei popolari a ogni costo. Prego. Non solo, non avendo dei veri azionisti in grado di intervenire, bensì masse di azionisti che possono tutto essere veniva deciso dai manager, esatto, non c'erano controlli. Detto questo, la BPM era una piccola, sana banca che con la riforma rischiava di essere mangiata. Si sono valutate una serie di opzioni, se ne è scelta uno che a mio giudizio non è una soluzione forte. Vabbè. Perché sarebbe stato decisamente più forte una fusione con UBI. Il punto comunque, che il mio pezzo riguarda la governance nel processo di fusione, io non mi esprimo sulla fusione perché anch'io penso che l'Italia ha bisogno di banche più forti e anche più grandi e in grado di competere in modo sano, ma al di là della valutazione se per BPM il banco sarebbe stata la scelta migliore, qui c'è un problema di governance, cioè i documenti che io ho trovato attestano il fatto che questa fusione è stata in realtà fatta senza che gli organi di controllo che avevano responsabilità di controllo secondo sia lo statuto sia le regole di vigilanza non hanno avuto modo di fare le verifiche che a mio giudizio sarebbero state necessarie. E questo, da qui cosa tu hai visionato appunto i documenti non nostri ma della BCE, questo che cosa potrebbe portare? Allora, innanzitutto io ho visionato i verbali interni dei vari consigli che dimostrano che non è stato dato modo a chi aveva responsabilità di vigilanza di valutare le analisi fatte dagli advisor e dallo stesso management. Quindi questo è il centro del mio pezzo. Per quello che riguarda la BCE, mi risulta che l'ispezione, peraltro che non ha portato risultati definitivi, si concluderà dicendo che ci sono ancora problemi di sottocoperture e che quindi si crea un problema o di accantonamenti che mancano oppure l'altra alternativa che io ritengo assolutamente probabile, certamente possibile, che Francoforte alzi l'asticella del patrimonio Core Tier 1, quello diciamo più pregiato, che non vuol dire che si dovrà ricorrere a una nuova capitalizzazione, però complica la vita alla futura nuova banca, perché la nuova decisione non riguarderà più il Banco Popolare o la BPM, ma le due banche insieme. E quindi non è detto che scatti un aumento di capitale, ma delle richieste più stringenti. Grazie anche a Claudio Gatti, un messaggio che non mi è mai arrivato, ma sta arrivando di tutto. Quando arriva il traffico, ho capito il messaggio, il traffico arriva adesso e poi invece cerchiamo di chiudere con una buona notizia che riguarda gli studenti italiani e il supporto alla formazione di questi studenti, un network che non riguarda solo Roma ma riguarda tutto il paese. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Focus Economia. Allora, dicevo, occupiamoci di formazione. Buono, spesso ci occupiamo di fuga dei cervelli, anche qui, come ho detto in apertura del programma, ci sono un po' di luoghi comuni, insomma, un po' di drammatizzazione, comunque delle difficoltà che hanno i nostri studenti e la scelta di andare a studiare oltre che lavorare all'estero. Un brevissimo inciso: guardate che non è vero che il mondo dell'università italiano sia tutto immobile. La competizione, per fortuna, colpisce e stimola anche loro. Ci sono università che si sono mosse nell'evitare questo flusso continuo di studenti e anche di rette, perché no, e quindi di introiti, ricavi mancati. La buona notizia è che oggi a Roma si inaugura una nuova struttura che si associa a altre esistenti, college per studenti universitari, si chiama Campus, nel quartiere di Pietralata, con, ripeto, un obiettivo un po' più ampio rispetto al semplice alloggio o residenza universitaria. Siamo in collegamento con il fondatore, amministratore delegato Maurizio Carvelli, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, voi inaugurate una struttura, mi sembra abbastanza importante, oltre 10.000 metri quadri? Esattamente, 10.000 metri quadrati lordi, 233 posti letto, quasi 200 camere, e la struttura è impostata per accogliere studenti universitari talenti, selezionati in base a un bando, merito, perché noi facciamo parte dei collegi di merito accreditati dal Ministero dell'Università. Collegi, quindi entità, fondazioni per lo più, che accolgono studenti universitari di merito, dando loro non solo un'ospitalità di alto livello, ma anche e soprattutto una formazione, cioè integrativa rispetto all'università, che aiuta ogni singolo studente a scoprire il proprio talento, a valorizzarlo e a crescere nella strada del suo talento. Ecco, il campus o Campus ha appunto servizi residenziali, ristorazione, la polizia, due sale, ristoranti, l'auditorium, la biblioteca, sale studio, ha anche una sala ricreativa, una sala musica insonorizzata. Tra l'altro, se ho ben capito, c'è anche una rete di tutor specializzati. Certo, perché la forza, il clou del servizio è nel fatto che esiste uno staff fatto da un direttore, quindi una presenza adulta, e da tutor, tendenzialmente vengono fuori dall'università, sono dottorandi, specializzanti, i quali sostengono il rapporto attraverso una relazione di studenti con loro uno ad uno, e come se li curassero appunto uno ad uno, perché per noi lo slogan è che ogni ragazzo è un cantiere e quindi ogni ragazzo va seguito nel suo percorso attraverso delle attività cosiddette formative non formali, che noi non ripetiamo l'università perché quello che fa l'università lo fa già lei, lo fa bene o male, ma lo fa, mentre noi ci occupiamo dell'ultimo miglio, cioè di quello che in qualche modo lo studente deve fare quando deve pensare al proprio futuro, e quindi mettere le mani in pasta, capire cosa serve quello che sta studiando, essere aiutato a capire dove sono le svolte, soprattutto all'estero, l'internazionalizzazione, come andare a fare esperienze fuori o dentro l'Italia che siano significative per la propria carriera. Voi avete, in realtà, questa è una struttura, ma ne avete 11 in 6 città: Bologna, Catania, Milano, Palermo, Torino, adesso appunto anche Roma, con lo Roma. Stesso schema, immagino, no? Stesso schema, stessa idea, caratteristiche diverse da città a città, dipendentemente dagli atenei, perché qui vengono studenti di tutti gli atenei, quindi lì la multidisciplinarietà è un vantaggio, una leva importantissima da una parte. Dall'altra siamo inseriti in una rete di collegi di merito, perché sono altre una trentina di altri collegi, non della nostra fondazione ma di altre, che permettono di avere una rete di 50 residenti in Italia con 4.000 studenti. Noi ne abbiamo circa un migliaio, siamo la realtà un po' più grande all'interno di questi collegi di merito, perché siamo più città con strutture molto grandi, quindi normalmente siamo sopra le 100 persone, ecco, 100 ragazzi. E veniamo alla domanda che mi pongono gli ascoltatori, e cioè lei parla di collegi di merito, quanto costa essere ospitati, diciamo, in questa struttura, e chi selezionate? Cioè, ci sono borse di studio? Sì, Noi abbiamo un'idea che è questa, di avere prezzi differenziati tra chi può permettersi e quindi ha le risorse per farlo, che può arrivare a spendere fino anche 12.000 euro l'anno, compreso di tutto ciò che ha come servizi sia residenziali che formativi, e borse di studio. Noi abbiamo circa il 40% di borse di studio, e che abbattono fino all'80% la retta. Questo per consentire a tutti i redditi di poter accedere e quindi di fare in modo che qualunque talento non venga sprecato. Si mettono insieme, chi può pagare un servizio lo paga, chi non può pagarlo, però l'importante è non svalutare i servizi, perché il diritto allo studio in Italia è sempre stato all'opposto, abbassare i servizi, no? Invece noi partiamo dall'idea che i servizi devono essere alti, perché se c'è bisogno di tirar su delle persone... No, ma tra l'altro la vecchia regola con cui deve fare buona pace anche un certo tipo di sinistra italiana è che se tu abbassi il livello della qualità dello studio non fai un servizio alle classi meno abbienti, anzi fai un danno, perché diciamo in maniera un po' brutale, il figlio del ricco poi ha sempre altri strumenti per fare formazione, master, corsi di qua di là, e chi avrebbe più bisogno di un aiuto che se tu gli abbassi il livello formativo la prende in quel posto, per essere ancora più francesi. Perfetto. Questa è la sintesi giusta. E questo modello sta sfondando. Tra l'altro noi abbiamo una grande attenzione dall'estero. Ma poi tutto questo percorso porta anche a un miglior rapporto con le realtà professionali, quindi col mondo del lavoro dopo? Le aziende qui vengono a fare, vi faccio un esempio, adesso stiamo partendo con un corso di robotica e di droni, con delle aziende che fanno droni. Loro vengono da noi perché i nostri ingegneri gli piace fare questa cosa. E quindi mettere le mani in pasta significa che questi hanno la possibilità di iniziare prima. Si figurano, le imprese, questi non hanno più problemi di posti, di andare a trovare un posto di lavoro, ce l'hanno già molto prima. Grazie ancora Maurizio Carvelli. Grazie a lei, buonasera, grazie a voi. Allora, guardate che questa è una buona notizia, ogni tanto si può anche riconosce quando c'è qualcuno che si muove, in senso non me ne frega nulla di cosa vota, ma basta con questa ossessione da psicologo se uno voterà sì o no, ma che stiamo impazziti tutti quanti. Sulle sofferenze bancarie vedo il tema, certo che il tema c'è, e certo che è stato un errore spostare tutto quanto dopo il 4, perché secondo me crea un effetto imbuto. Le sofferenze bancarie italiane sono ancora tutte lì, gli aumenti di capitale sono ancora tutti da fare, e vabbè, ed è chiaro che questo aumenta non solo le tensioni ma anche la speculazione. Quindi chiudiamo dove abbiamo aperto, augurando buona serata a tutti gli ascoltatori, anche quelli che passano dal primo minuto all'ultimo a criticare, e ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.